ora apriamo un'altra finestra sul corso di perfezionamento della scuola per librai Umberto ed Elisabetta Mauri che si è tenuto la settimana scorsa a Venezia. Questa è un'occasione in cui normalmente ci si confronta fra addetti ai lavori su vari aspetti del mercato editoriale. Ho trovato molto interessante la prospettiva di Stefano Bolognini, che è presidente della Società Psicoanalitica Italiana, che ha proprio puntato l'attenzione sul rapporto fra il lettore e il libro. E allora sentiamo cosa ci ha detto. Il rapporto tra il lettore e il libro può variare molto, naturalmente, perché ci sono livelli diversi di immersione nella lettura. Lei, come tutti noi, saprà bene che ci sono dei libri che ci hanno catturato per ore o per giorni e altri libri che abbiamo sfogliato con una certa rapidità. Quindi il rapporto con il libro varia da persona a persona e da libro a libro. Ciò nonostante, quello che possiamo dire è che alcuni libri, che sono libri per esempio tecnici o scientifici, ci impegnano a livello del cosiddetto io cosciente, cioè delle parti corticali del nostro cervello, la parte razionale. È come se studiassimo. Altri libri invece ci catturano, ci fanno entrare in un mondo. Questo succede con i grandi romanzi o con libri di storia particolarmente suggestivi. In questi casi l'immersione, la full immersion del lettore è un'esperienza vera, non è un'esperienza reale, nel senso che noi non siamo realmente là dove si svolge l'azione del libro, ma è vera perché ci tocca dentro. Ma che cos'è che coinvolge particolarmente il lettore? Il fatto di riconoscere una parte di sé nel romanzo o invece proprio il fatto di scoprire cose molto diverse dal proprio mondo? Entrambe le cose possono accadere. La prima accade quasi sempre, cioè che entrino in risonanza parti di sé cui non si era data attenzione o cui non si era dato parola e quindi ritrovandole lì si prova l'emozione di sentirle, diciamo così, risuonare, vibrare. Nel secondo caso, quando si aprono nuovi mondi, ecco, anche questo è vero, perché per esempio scopriamo storie, luoghi, atmosfere che non avevamo mai immaginato che esistessero e in questo senso quindi è effettivamente qualcosa di nuovo. Tutte e due queste dimensioni sono implicate nella lettura dei libri che ci prendono particolarmente. Ci sono quindi dei romanzi che, adesso ovviamente esagero, cioè cambiano la vita, però insomma diciamo possono dare un punto di vista diverso ai lettori e quindi, come dire, cambiare in parte la loro visione del mondo? Io credo di sì. Ci sono dei testi che hanno cambiato più persone. Nel caso mio, se posso fare l'esempio, devo dire che la lettura quando avevo sui 15 anni di Guerra e Pace mi ha aperto la mente. E anche il cuore per tanti versi. Ci sono vissuto dentro una settimana praticamente non uscendone quasi mai se non per mangiare e dormire qualche ora. Ma so che per molte persone molti libri sono stati un punto di svolta della loro esistenza che li ha, come dire, svegliati e convocati a cose che poi sono diventate fondamentali per loro. Per quanto riguarda proprio i libri, i romanzi, ultimamente va un po' di moda parlare di libroterapia, usare i libri per curare, diciamo, degli aspetti della mente, il libro per chi è malinconico, il libro per chi è troppo esagitato, insomma, tutte queste cose qui. È una questione di moda del momento oppure effettivamente lei da psicoanalista pensa che i libri, alcuni romanzi possano aiutare? Beh, sono vere tutte e due le cose, nel senso che c'è senz'altro una moda, in questo momento si batte in maniera un po' troppo formulare su questo aspetto della terapia attraverso il libro. Però c'è anche del vero, ci sono dei libri che danno una visione delle cose talmente diversa e ispirano atmosfere, umori così diversi che davvero sono come dei farmaci che agiscono sull'organismo. In certi libri dovrebbero avere un bugiardino, cioè quel foglietto che troviamo nei flaconi delle medicine che dicono le proprietà, i vantaggi che danno certe medicine, ma dicono anche gli effetti collaterali. Certi libri possono turbare profondamente, possono anche alle volte sbilanciare certe persone. Questo per dire quanto potente può essere la lettura di un libro che entra dentro. Il paragone con gli aspetti nutritivi è proprio dovuto a questo, che i libri fanno entrare dentro delle cose, delle immagini, delle idee, delle sensazioni, e non lasciano di solito la persona uguale a prima della lettura. Qualcosa cambiano. È uscito oggi in anteprima, solo in download, lo potete trovare sul sito di Emmons Audiolibri o su iTunes, l'audiolibro della ragazza con l'orecchino di perla di Tracy Chevalier, letto dall'attrice Isabella Ragonese. Perché viene lanciata oggi questa iniziativa? Beh, perché naturalmente è in contemporanea a quella che è considerata un po' la mostra dell'anno che si è aperta a Bologna, la mostra appunto dei capolavori di Vermeer, fra i quali la famosissima ragazza con l'orecchino di perla. E allora, se vi piace l'idea dell'audiolibro, sentiamo un brevissimo estratto della ragazza con l'orecchino di perla, letto da Isabella Ragonese e pubblicato da Emmons. La mamma non mi aveva detto che sarebbero venuti. Non voleva che sembrassi nervosa, mi spiegò in seguito. Mi stupì, perché pensavo che mi conoscesse bene. Gli estranei mi avrebbero visto serena. Da bambina non piangevo mai. Solo mia madre si accorgeva di una certa tensione nelle mie mascelle e dello sgranarsi dei miei occhi, già grandi per loro natura. C'è un libro che sta avendo un notevole successo e che è un libro anche che fa del bene. Si intitola Sei per la Sardegna, pubblicato da Einaudi. Sei scrittori sardi hanno deciso di scrivere dei racconti e di devolvere tutti i loro diritti d'autore, e poi anche la casa editrice ha rinunciato, insomma, a guadagnare su questo libro, per destinare questi fondi alla ricostruzione dopo l'alluvione della Sardegna. In particolar modo i soldi ricavati da questo libro verranno dati alla comunità di Bitti, che è un centro, un comune particolarmente colpito da questa alluvione, che si trova nel Nuorese. Gli scrittori che hanno scritto per questo Sei per la Sardegna di Einaudi sono Francesco Abate, Alessandro De Roma, Marcello Fois, Salvatore Mannuzzu, Michela Murgia e Paola Soriga. E c'è un altro libro di scrittori solidali, definiamoli così, e si intitola Le parole che sono importanti, pubblicato da Feltrinelli, su un'idea della Onlus È nel cuore. Raccoglie in un nuovo vocabolario le parole e i temi della solidarietà. Insomma, è stata fatta un'operazione di riscrittura, è stato dato un nuovo significato a parole come dono, abbraccio, dignità. Su queste parole si sono così cimentati scrittori, artisti, sportivi, da Gad Lerner a Claudio Bisio, da Valentina Vezzali a Vinicio Capossella, per finire a Paolo Di Paolo. Le royalty raccolte dalla vendita del libro saranno interamente devolute all'associazione Celus per il sostegno dei bambini di Scampia. E tra l'altro vi segnalo che il libro sarà presentato a Roma martedì 11 febbraio alle 18 alla Feltrinelli di via Vittorio Emanuele Orlando. E ora in compagnia di Armando Massarenti, responsabile del domenicale del Sole 24 Ore, l'inserto culturale Domani in Edicola. Armando, cosa ci proponi così di interessante e stuzzicante? Ma tra i molti articoli di questo numero, forse uno abbastanza sfizioso, un po' provocatorio, non è detto che lo si debba condividere, è quello di uno scrittore inglese, un nostro collaboratore, Tim Parks, che vive da molti anni ormai in Italia, ma che è un importante scrittore, e che se la prende, ma non è che se la prenda, fa un'analisi apparentemente disinteressata del comportamento di altri scrittori, e in particolare fa l'esempio di Salman Rushdie. Rispetto a cosa? Rispetto alla ossessione che hanno gli scrittori di scrivere un bestseller e quindi di diventare famosi, ma soprattutto di vincere una sorta di gara con gli altri scrittori. Quindi una sorta di competizione implicita che però, devo dire, dalle parole che vengono citate di Rushdie appare abbastanza, anzi quasi esplicita. Grazie allora ad Armando Massarenti, responsabile del Domenicale, l'inserto del culturale del Sole 24 Ore, Domani in Edicola. Ed è tutto per questa puntata, grazie in regia a Roberto Scaltritti. Se non avevate carta e penne e volete prendere ancora appunti sui libri che abbiamo citato, trovate questa puntata su radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.